E se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Negli ultimi anni della sua vita, Oriana Fallaci intrattenne un'intensa corrispondenza con Monsignor Rino Fisichella. Queste lettere, rimaste finora segrete, vengono oggi diffuse per volontà dello stesso Monsignor Fisichella, convinto che questa corrispondenza possa fornire un ritratto positivo di Oriana. Domenica 23 ottobre 2005, dopo aver appreso la notizia della morte della madre di Monsignor Fisichella, Oriana scrive: Rino, Marco ha chiamato, me l'ha detto, e ne sono rimasta molto turbata. Oh, lo so che quel dolore miliardi di esseri umani lo hanno sofferto prima di te, di noi. Lo so che a miliardi ne soffriranno dopo di te e di noi, che questa è la legge della vita. Lo so che la tua certezza di rivederla ti aiuta ad accettare una realtà che io non accetto. E infine, so che ti ci stavi preparando. Ne parlammo due telefonate fa, ricordi? Non so perché ti chiesi di lei e tu rispondesti: se l'avessi persa all'improvviso non avrei resistito, quindi meglio che se ne vada così. Piano piano mi abituo all'idea. Però so anche che quando il momento arriva, non si è pronti lo stesso. Io non lo ero, la notte in cui mia madre se ne andò. Nonostante tutta la morte che avevo visto alle guerre, tutti i giovani che mi erano morti accanto al fronte, nonostante alle cose che un anno prima era stato ammazzato mentre correvo ad Atene per cercare di salvarlo, non ero pronta. E sebbene fossi andata a vivere nella casa di campagna per starle vicino, sebbene mi fossi abituata all'idea, ne soffrii in maniera lancinante. Unico conforto, il fatto che la sera precedente fossi riuscita a procurarle un prete. Prete, aveva farfugliato con occhi imploranti verso mezzanotte. Così ero corsa subito fuori senza neanche infilarmi un cappotto. Era inverno e nevicava. Nel buio avevo raggiunto la chiesa del villaggio e chiamato un certo Don Gori che non voleva venire. «Domani, domani, ora è troppo tardi e fa freddo!» «A spintoni, parolacce, minacce, se non mi segue seduta stante io l'ammazzo!» Lo avevo costretto a venire con la stola viola e il resto. E a vederlo entrare, gli occhi imploranti s'erano illuminati d'una gioia insensata, sublime e insensata. Oltretutto lei lo detestava perché per celebrare la messa nella nostra cappella del giardino esigeva ogni volta 20.000 lire. E perché durante la messa prendeva a calci York, il suo Yorkshire Terrier, che si metteva ai piedi dell'altare. Poi, da un tipo simile assolta dai peccati che non aveva mai commesso, s'era appisolata con un sorriso felice e... ho chiesto a Marco: «A che ora se n'è andata?» «Alle 3 del mattino», ha risposto un po' sorpreso dalla domanda, e ho avuto un brivido. Anche mia madre se ne andò alle 3 del mattino. «Non ho mai visto un ritratto della tua. Nel living room vi sono soltanto fotografie di prelati, ma la vedo in due immagini che en passant me ne hai dato. La prima è quella d'una mamma alla quale un bambino di 7 anni dice inesorabile: «Io voglio diventare prete». La seconda è quella d'una signora che si inchina dinanzi al proprio figlio vestito da vescovo e gli bacia l'anello, dunque la mano. Beh, al tuo dolore dico, non è vissuta invano quella mamma, quella signora, perché ha messo al mondo te. E a costo di scandalizzarti, indignarti, spaventarti, aiuto, aiuto, Graham, chiama la polizia, porta l'acqua santa che bisogna fare un esorcismo. Questa volta ti abbraccio teneramente, anzi, con tutta l'anima. Questa era la lettera scritta da Oriana Fallaci a Monsignor Rino Fisichella, il 23 ottobre 2005. Alla vigilia di Natale del 2005, Fisichella scrive: «Sto per andare dal Papa per la messa di mezzanotte. Oriana carissima, è Natale, non uno qualunque, perché ogni Natale è per me un dono unico e irripetibile, che mi ricorda il farsi uomo del Figlio di Dio. Ti invio una breve frase di San Gregorio, il teologo, non poteva essere altrimenti, il quale dice: colui che è, nasce. Colui che è incomprensibile, viene compreso. Colui che arricchisce, conosce la povertà. colui che è pienezza diviene vuoto. Questo mistero mi riguarda. Pregherò il Signore per te, perché ti conceda di portare a compimento ogni desiderio di bene che è in te. Nell'attesa di risentirti, ti auguro un buon Natale. Oriana Fallaci gli risponde inviandogli una copia de La forza della ragione e poi gli scrive: L'alieno si è esteso alla spina dorsale, si è piazzato nella vertebra dentro cui mi beccai la pallottola messicana e di lì ha invaso altre vertebre. Da gennaio soffro dolori spietati e vivo di anestetici. Il 2 maggio 2006 Oriana scrive: Non ti scrivo da 100 anni. Ormai è diventata un'impresa straziante anche cambiare il nastro di questa macchina. Tutto fluttua dentro la nebbia e in più a stare seduta mi manca il respiro. Soffoco. Quasi ciò non bastasse, ogni giorno succede qualcosa che mi ruba a me stessa e quando emergo dal nuovo trauma crollo sul letto come un bove al mattatoio. Lì ti scrivo, sì, ma col pensiero e basta. Qualche giorno dopo Oriana scrive: Sai, mi dispiace molto morire. Infatti me ne vado con molti dispiaceri, ma il dispiacere più grosso è averti trovato così tardi e aver passato così poco, troppo poco tempo con te. Non so nemmeno chi eri, com'eri. Di te so soltanto chi sei oggi, una persona nella quale mi riconosco completamente, sebbene io sia completamente diversa da te. Avete ascoltato la lettura di alcune lettere scritte da Oriana Fallaci a Monsignor Rino Fisichella, pubblicate su Il Giornale del 18 settembre. Letture di Radio 24. Un libro recentemente pubblicato negli Stati Uniti esamina il crescente fenomeno dei viaggi alla ricerca della sanità low cost. Esce negli Stati Uniti in questi giorni il saggio Foreign Body e ha le premesse di un bestseller. Tratta il tema caldo dei medical refugees, quei milioni di americani che lasciano gli Stati Uniti in caso di malattia, cercando cure a basso costo, perché chi non ha un'adeguata copertura assicurativa può avere difficoltà a pagarsi gli alti prezzi della salute. Da noi il sistema sanitario si fa carico di quasi tutti i nostri bisogni, ma anche qui il turismo medico ha già molti adepti. La Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane, FISM, per prima in Italia ha affrontato il problema, organizzando recentemente con ABC Salute un convegno a Milano su low cost in sanità. La famosa corsa a ridurre i costi investe tutto il settore della sanità, sia a livello dei pazienti, che si spostano dove trovano costi più bassi, sia a livello di amministratori, cui vengono proposti beni e servizi a prezzi estremamente interessanti. Le tecnologie low cost, stent endoscopici e coronarici, valvole cardiache, protesi ortopediche, strumentazioni diagnostiche e presidi curativi di varia natura, anche farmaci, vengono principalmente dall'estremo oriente, mentre le risorse umane, infermieri ma anche medici, sono prevalentemente sudamericane o dell'est europeo. In Italia e all'estero si intensifica di conseguenza il dibattito su costi e qualità. The Economist ha coniato il termine costectomia, taglio dei costi, mutuandolo dal gergo medicale, realizzabile attraverso i viaggi della salute, e ne ha analizzato da una parte i vantaggi e i rischi per i pazienti, che non possono essere adeguatamente seguiti da chi li ha curati, e dall'altra i guadagni per gli erogatori di servizi a basso prezzo e le perdite per sistemi sanitari che tardino a percepire il peso economico del turismo medico. Effetto della globalizzazione, fenomeno spontaneo, premio meritocratico a chi riesce a dare prestazioni complesse a costi contenuti, quanto si sta verificando è lo spostamento di grandi masse di pazienti da paesi dai costi sanitari alti verso altri con costi decisamente più ridotti. quello che sta avvenendo a livello internazionale assume in Italia due aspetti. Quello di pazienti che se ne allontanano per motivo di una qualità che ritengono più alta in centri stranieri, o per risparmiare sui costi e per accedere a cure non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, e quello di viaggi della salute, flussi di pazienti e familiari che si muovono da una regione all'altra, ma abitualmente verso il nord, attratti dai grandi centri o da strutture ad alta specializzazione. Ma in Italia il fenomeno del turismo medico non potrà assumere le dimensioni che sta sviluppando negli Stati Uniti, perché il sistema sanitario garantisce a tutti i cittadini italiani una copertura assicurativa pressoché completa, ma andrà visto come un ulteriore stimolo verso la ricerca di alta qualità dell'assistenza su tutto il territorio nazionale. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Pasquale Spinelli, I viaggi low cost della sanità, dal Corriere Salute del 14 settembre. Sulle pagine del Riformista, Giuliano Da Empoli commenta il primo faccia a faccia televisivo tra Obama e McCain. Diciamo la verità. Chi ha fatto le ore piccole per seguire in diretta il primo faccia a faccia tra Obama e McCain è rimasto deluso. Occhi sbarrati, gesti meccanici, repliche preordinate. Non si può dire che il dibattito sia stato all'altezza delle aspettative. I commentatori si sono arrampicati sugli specchi per vederci comunque qualche elemento di interesse, ma la realtà è che abbiamo assistito a 90 minuti piatti come l'encefalogramma di Karl Tausch. Ora, nel caso di John McCain, la cosa non sorprende. Con il mezzo televisivo, il più anziano candidato alla presidenza dell'intera storia degli Stati Uniti non ha mai avuto dimestichezza. Difficile fargliene una colpa. Se provate a collegarvi al sito thinksyoungerthanjohnmccain.com, vi renderete conto che, tra le cose più giovani del candidato repubblicano, ci sono il Monte Rushmore, il vaccino antipolio e la pennasfera. Altro che telecamere. È già una fortuna che il valoroso McCain sia in grado di tenere in mano un microfono. Il caso di Obama, invece, è più singolare. Puro prodotto degli anni 60, in fondo la nuova rockstar della politica mondiale dovrebbe sentirsi a casa propria tra le pareti di uno studio TV. E invece no. Lo si era già visto in occasione dei dibattiti per le primarie democratiche, e le immagini di venerdì notte lo hanno confermato. Per qualche curiosa ragione, Barack non buca lo schermo. Le sue sono, certo, performance del tutto rispettabili, ma niente a che vedere con l'effetto prodotto dai grandi comunicatori che lo hanno preceduto. John Kennedy, Ronald Reagan, Bill Clinton. Il fatto è che Obama è il primo candidato post-televisivo. Fin dalle prime battute, la sua campagna elettorale ha fatto leva su internet e sui nuovi media, assai più che sul piccolo schermo. E se, per caso, le elezioni di novembre dovessero incoronarlo vincitore, esse segneranno anche un cambio di paradigma nella storia della comunicazione politica. Non sarebbe la prima volta che la tecnologia produce un impatto radicale sulla scena politica americana. Nel 1828 la rivoluzione dei trasporti ha portato alla Casa Bianca il primo presidente estraneo all'aristocrazia politica della costa East, Andrew Jackson, che ha sbaragliato il suo rivale mettendo in piedi la prima campagna elettorale autenticamente nazionale. 30 anni più tardi, Abramo Lincoln si è affermato quando i suoi discorsi sono stati riprodotti dai quotidiani, che hanno raggiunto proprio in quegli anni la massa critica necessaria per produrre un impatto significativo sull'opinione pubblica. Nel corso della Grande Depressione, Franklin Delano Roosevelt è stato il primo presidente a impiegare la radio per comunicare direttamente con il popolo americano, costruendo una base di consenso che gli avrebbe consentito di diventare il presidente più longevo della storia degli Stati Uniti. Il famoso dibattito televisivo del 1960, per parte sua, ha segnato la schiacciante vittoria del giovane John Fitzgerald Kennedy su Richard Nixon, aprendo l'era della politica catodica, che sarà poi magistralmente dominata dall'ex attore Ronald Reagan nel corso degli anni Ottanta. In quello stesso periodo, i repubblicani hanno riscoperto la radio e costruito un formidabile network di stazioni di talk show iperconservatori, che diventeranno la base dei successi di Newt Gingrich prima e di George W. Bush poi. La padronanza di Obama sulla rete ha prodotto un effetto simile, di fronte al quale Hillary Clinton prima e John McCain poi sono apparsi del tutto impreparati. Un'organizzazione che, come la campagna di Obama, passa da 0 a 700 dipendenti e da 0 a 200 milioni di capitalizzazione in un anno. In fondo è una super startup, una di quelle imprese di crescita come Google e come Facebook, di fronte alle quali i pachidermi della politica sono impotenti. In confronto alla capacità della rete di catalizzare risorse umane e finanziarie, la televisione fa ridere. E chi continua a guardare ai dibattiti televisivi come se fossero la chiave delle presidenziali americane, rischia di fare la fine di quei generali francesi che pensavano di poter vincere la Seconda Guerra Mondiale sulle trincee della prima. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giuliano da Empoli, Obama non sa comunicare in TV, per questo vincerà le elezioni, da Il Riformista del 29 settembre.